la rubrica di musiche strane che arrivano in frequenza su Radio Città Fujiko. Ora stiamo un po' impegnando tutte le giornate, visto che il last minute è andato così scemando e riprenderà ovviamente già pienissimo da settembre. Quindi ne approfittiamo un pochettino per conoscere label come questa, la Ben Bekula. È un'isola al largo delle coste scozzesi. Poi vi darò dettagli più precisi per quanto riguarda arcipelago, caratteristiche e quant'altro. La label è la Ben Bekula, uno degli artisti di punta che è stato protagonista in diverse pubblicazioni, ha un nome altisonante, è Christ o Christ, e dà attinenze con quello che è EDM, elettronica e ambient, che sono un po' le tre caratteristiche forse più diffuse all'interno di altri suoni. Ha prodotto diversi lavori con una sorta, sarà la Scozia, di vicinanza con il progetto Boards of Canada, che ben conosciamo. Uno, secondo me, per quanto riguarda il contemporaneo nell'ambient e nell'EDM, loro sono i più riusciti, sono quelli che mi piacciono di più, per meglio dire, per Warp Record. Ecco, questo parallelismo con la Ben Bekula e Christ che andiamo ad ascoltare riporta, come ho detto, questa vicinanza, seppur con un aspetto più tagliente e meno soffuso, meno idea di tappeto e qualche spigolo in più. Il lavoro è un LP, si chiama Metamorphic Reproduction Miracle. La metamorfosi nella riproduzione è veramente un miracolo. Infatti c'è una ragazza che è bellissima e pian piano, appunto, questo ventre che cresce. E che dire, le sonorità di Christ qua da questo LP le iniziamo ad ascoltare aprendo la playlist, e poi conosceremo altri progetti sempre all'interno della Ben Bekula Record dalla Scozia. Con altri suoni si inizia la rubrica di sonorità diverse. A tra poco. Thank you. Christ Metamorphic Reproduction Miracle, LP per Ben Becula, Isola, che dà il nome a questa label delle Ebridi Esterne al largo della Scozia. Isola piccolissima, però dotata di un aeroporto militare, mi sono informato, ovviamente della Royal Air Force. Il brano che abbiamo ascoltato, tratto da questo LP, ha delle attinenze con Boards of Canada, anche loro scozzesi, e aggiungo, salutando i passeggeri in atterraggio qua a Bologna, al Marconi, sapete che siamo di passaggio, quindi salutiamo educatamente chi arriva nella nostra città, auguriamo buon viaggio anche a chi parte. Queste sonorità che stiamo ancora ascoltando, che vedono ambient, EDM, elettronica, da un tempo e una struttura esattamente da altri suoni, quest'oggi protagonista, ma non solo, con questo producer vicinissimo a Boards of Canada, tanto più che è presente anche nel disco Taoism del duo dei Boards of Canada, altri progetti qua, veramente questo brano è Boards of Canada. Ecco, questa apertura è veramente tipica. Altro progetto, Green Bank, che vi faccio ascoltare sempre per la Bembecula. Ho portato un po' di dischi da questa label per darne un panorama quanto mai completo. Beh, Bembecula, che è l'isola nelle Ebridi Esterne, qua isola ovviamente della Scozia, ha un panorama molto particolare. Poi vedremo anche l'etimo, l'origine del nome. Intanto Green Bank, Rotating the Square. A tra poco. su questa conclusione del brano di Green Bank che apre l'LP Rotating to the Square do il buongiorno a Maria. Grazie Maria, scrive al 333-180-9494, ci tiene a dire che mi è mancato tanto quest'anno non partecipare al quiz del Voltiamo Pagina. Purtroppo è cambiato l'orario di lavoro e riesco a seguire solo la presentazione del primo libro. Dai, cerca di seguire, magari faccio subito il quiz e riesci a vincere questo lavoro che ho qui al mio fianco, molto bello. Ma già è qualcosa, in più esiste la paginetta Facebook. Questa mattina non riesco a seguire l'inizio. Ah, ok, perciò prima che mi sfugga ti auguro un'ottima estate. La ricambio anche a te, Maria. Grazie di cuore, con un grande abbraccio. Se per venerdì ti manca il pezzo italiano d'apertura, propongo Michele Opazzo di Rino Gaetano. Terrò presente. Ne ho già un altro degli Area. Magari mettiamo due pezzi di musica italiana, eh? Grazie Maria, grazie di cuore. Buona estate anche a tutte le belle persone che ti seguono, che ricambieranno questo augurio e questo abbraccio. Grazie di cuore Maria, grazie, una buona estate. Voltiamo pagina, che sarà a breve la rubrica letteraria. Metto un ultimo brano da Syntax per la Ben Becula Record. Origine del nome: Isola della Laguna. E io, quando che ho questa passione geografica, ho letto che è un'isola e quindi subito ho voluto vedere le immagini. Ho detto: beh, qui siamo alla foce del Po di Pila. No, no. Tutto mi porta a vedere il meraviglioso estremo Delta Veneto, quindi se volete anche voi consultare questi spazi bellissimi che hanno delle attinenze con zone più vicino a noi, e soprattutto se amate l'ambient, l'EDM, l'elettronica, un certo tipo raffinato e ricercato di downtempo, indubbiamente il consiglio musicale Ben Becula per quanto riguarda altri suoni di oggi, mercoledì 26 luglio. Stiamo andando verso la pubblicità e tra poco il Voltiamo Pagina. Allora, a tale proposito, 333-180-9494, una lettura che vi terrà compagnia per il mese di agosto. A tra poco!